10, c'è qualcuno? Sandra! Sì, chi è? Natalino? Perché ci vede? È l'ambulanza che non... Sto provando un microfono. Mi dici come mi senti? Bene, io la sento sempre bene. Lì, perché lì ha roba di qualità. No, non andiamo qua a pettinare le cose. Gianfra, mi hai sentito? Sì, Natalie, però sto regolando l'antivox, perché ho visto che quando parli tu poi vai in trasmissione, quindi c'è un problema sull'antivox. Quindi a volte ti ho sovramodulato perché bisogna regolare praticamente il vox. Adesso sono senza con un microfono Bluetooth, di quelli microfonici, audio e voce, dai. Quindi è probabile che, però, che la radio fosse un po' bassa, ma se va bene, se mi dici che va bene, speriamo adesso che non si scatti in trasmissione. La radio già sta facendo bene, speriamo che non scattino la trasmissione. Sì, invece scatta. Dammi un attimino, Natalia, che devo escludere la posso dipendere dall'altoparlante interno che fa questa strana funzione. E ok. Prova, vediamo un po', Natalia, se sono riuscito. Prova. Ok, prova, dai, 1, 2, 3, vedi se scatta. No, Natalia, adesso non scatta, era sicuramente l'altoparlante che le dava fastidio. Quindi dicevo, poco fa ti sovrano guardate. Com'è la radio? Va bene oppure c'ha qualche problema, ecco, rispetto al solito? Se vuoi ti ritrasmetto in PMR, sempre che ci arrivo da te. No, Natalia, non c'è problema. Mi interessa sapere solo se è chiara, se il livello è giusto, ecco, per le regolazioni. Ma penso che dall'amministratore quello che qua dovrebbe essere non fortissima, ma almeno sufficiente. Guarda, è una bella radio. È di lusso. Adesso io non lo so se arrivavo da te col PMR, se no te l'avrei fatta sentire in diretta. Guarda, sì, probabilmente arrivi senza problemi col PMR da me. Se vuoi fare anche una prova di lì, però non mi rimandare in aria, è giusto per toglierci questa curiosità, lasciami il tempo di accendere l'apparato e vediamo un po' se mi ascolti. Dammi il canale. Se tu ascolti a me. Natalia, dammi un canale. Il 7, sempre il 7 usa, dai. Natalia, quello è sempre occupato da altra gente. Prova l'1 che mi sembra libero, dai. Ma non mi ricordo la frequenza dell'1. Beh, allora tu sei ingagnoso, non stai usando il PMR. Non sono ingagnoso, è che tocca... Va bene, dai, sente, vedi un po', te lo metti. Aspetta, parlo io, lì. Parli. Ah, tutto fischi, Natali, tutto fischi. Forse è nel cago il mio. Aspetta, però sei quasi fondo scala. Provo io, 1, 2, 3, prova. Ma anche trasmissione quando parlo perché c'è il box. Vedi un po' se... Ok, tu sei quasi, ripeto, fondo scala, Natalia. Hai visto che il portatile già funziona? Ecco, buongiorno, di parlare. Vi siete sovramodulati. Avanti. Ciao Fabrizio. Ciao Fabri, buongiorno, ben entrato. In compagnia di Gianfranco qua. E ciao Gianfranco. No, era solo vedere se stavo. Aspetta, tolgo questo. Che è successo? È successo qualcosa a Fabrizio, sta facendo così bene. scusa Fabri, poco fa c'era la cosa, non si è detto il Bluetooth, non capivo un tubo, ma anche adesso non capisco un tubo, Fabri. Buongiorno, buona domenica. Ascolta, ti vedo che sei larghissimo, sei una cosa spaventosa in banda anche. Stai andando a destra, a sinistra, in alto, in basso. Sì, vabbè, questi sono baracchini. E quindi praticamente cosa ho toccato? Devo aver toccato qualcosa di strano qua. Adesso va bene. Adesso dimmi, aspetta, mi viene un dubbio. Adesso guarda, adesso è aumentata per caso la modulazione? Sì, sì, un pochino. La banda è normale, ora è come occupazione di banda. Sì, sì, come sta col frequenzimetro? Aspetta. Di nuovo stai andando un po' dappertutto. E quindi c'hai uno slittamento di frequenza sia a destra sia a sinistra. Niente, punto al capo, prima andavi bene, poi si è tutto distorto e cioè, sembrava broadcasting. Oh, questa cosa qua non mi era mai capitata, adesso scommetto che sta andando bene. Assolutamente sì, per sicurezza chiediamo conferma anche a Natalino, non so mai. Natalino? Ehi, adesso sì che sta andando bene, poco fa tutto distorto. Credo che risaldo un filo che mi serve per prendere una presa a campione, però mi sembra strano perché che cosa c'è? Cioè, non sto facendo altro, sto solo scollegando il frequenzimetro, non è che ho fatto altro, lo strumento, aspetta, provo a fare di saldare uno e poi faccio un'ultima prova, se no non riesco nemmeno a capire cosa stia succedendo. Sì, fai. Infatti anche io non l'ho vista mai una cosa del genere. Sembrava broadcasting, c'hai una cosa a destra e una a sinistra, come larghezza, occuperai 3-4 canali, se non pure poco più, la voce risulta incomprensibile. Natale, io sono ripassato col microfono normale, c'è differenza rispetto a Bluetooth? Ma non ti credere, no, il microfono normale ci viene lo stesso. Allora, adesso faccio una prova, adesso sicuramente tu mi dici che sto uscendo bene, vero? Sì, adesso sì, anche se come scatto ho fatto qualcosa sulla destra, sul analizzatore. Vabbè, è un baracchino, non è che... Adesso io scollego il frequenzimetro. Dimmi come sto uscendo col frequenzimetro scollegato. Sì, tieni costante la radio però, che adesso ti capisco e mi sembra regolare anche come occupazione del canale. Allora, adesso ho scollegato il frequenzimetro. Poco fa era un filo dove stavo prelevando una presa a campione per prendere delle misure. Molto probabile. Prova a aumentare un po' la radio, vediamo se lo rifà. La radio, questo è un microfono originale, aspetta, dov'è il Mickey Gain? Fammi leggere il Mickey Gain, vediamo se è questo. È al massimo il Mickey Gain, non è che puoi fare nient'altro. Così stai uscendo bene, lascia fare tutto così, Fabri. Anche se è un microfono normale già stai uscendo bene di radio. Forse ce l'avevi lontano poco fa e si è abbassata notevolmente. Sì, no, ma quello che mi... che stavo uscendo male, era una cosa stranissima. Sicuramente è quello. Vabbè, l'importante è che adesso sta andando bene. No, sto facendo delle prove, devo fare delle modifiche, quindi aveva dei problemi e devo... stavo iniziando a mettergli mano e quindi sto risolvendo un problema dietro l'altro. Niente, un baracchino che devo fare delle modifiche pesanti, però guarda, quando mi metto anche Gianfranco, cacavo il frequenzimetro, può essere che magari quello spezzone che ho attaccato per prendere delle misure magari creava dei problemi, non lo so, stranissimo, vabbè, non me l'ha mai capitato, vabbè, una cosa in più. Infatti, ma anch'io avevo sentito mai cose del genere, dai. Avanti Gianfranco. Questo lo vedi pure, ti fa ancora più impressione perché è tipo broadcasting lo spaziamento di occupazione del canale, ho una banda proprio larga, non sono i 10 km soliti, sono parecchi. Ma sicuramente era quella fare con la sonda, magari ce l'ho male. spaccato la frequenzina. Tutto che adesso non lo sta facendo. No, il contrario. Poco fa con la sonda attaccata per vedere la frequenza andava bene. Come collegavo la sonda dava quel problema. Però avevo attaccato io un altro strumento, che poi è un multimetro in particolare. Stavo prendendo delle misure e probabilmente, come ho staccato lì, probabilmente tutto l'insieme, chissà che il loop che da cavolo gli faceva girare, perché in effetti stavo lavorando su PLL, quindi può essere qualcosa lì, quindi fa incasinava un po'. Sì, perché tra l'altro controllato se anche c'è tratto adesso le frequenze, quindi dovrebbe essere tutto tranquillo adesso. Magari c'era qualche rientro strano, questo PLL e le baracchini, già lo sai come sono fatte. Sì, va bene, dai, allora dai, ti ringrazio, proseguo, che mi sposto un attimino e proseguo a lavorarci, se no non esco più. Va bene, grazie Gianfra, grazie anche a te, e poi già ci sentiamo magari più tardi, dai. Un'ultima cosa, Fabri, ma su nei canali alti non c'è più nessuno, è tutto abbandonato. Su canali alti qua? No, in 2 metri. Ho capito, sì, no, già, sui ponti, in 2 metri in genere ogni tanto, però si sta usando molto l'R7 Alfa e via, però ultimamente va periodi, cioè io ultimamente sto facendo molte HF, quindi ti posso dire, adesso per esempio sono acceso sul mi ho dimenticato anche di accendere un paio di web di radio dove sono state le altre frequenze, però ogni tanto qualcuno già entra. Allora posso dipendere da me che non sono un ottambulo, io alle 8 sto spegnendo tutto, magari gli altri poi entrano dopo cena e per quello che non sento mai nessuno, ma neanche nei giorni che tipo domenica eccetera. Va bene Fabri, ti lascio al tuo lavoro, c'è bisogno, siamo qua. Sì, a dopo, grazie mille. Riprendi Natale. Mi sono ritrovato un paio di cose, come si chiamano quelli a fare, di auricolari, chiamiamoli così, che è una ricezione che trasmissione Bluetooth che utilizzo per i telefoni, no? E che ho detto ma l'apparecchio, dato che c'è la cosa, il Bluetooth, vediamo se funziona. Se funziona, meglio così, quindi vuol dire che non è di quelli sofistici, no? Perché a volte a seconda delle marche non li accettano. Natalino? Oh yeah, sono qui. E ti avevo perduto. Quindi non ti ricevevo. E se stavi parlando con Fabrizio mica potevo parlare anch'io. No, quello no, però ero un passaggio precedente, forse eri lento a premere. Comunque anche tu Natale stai arrivando bene, non c'è nessun rumore particolare di sottofondo, quindi presumo che il televisore sia spento. La devo spegnere per forza, se no senti più il televisore che a me. Devo buscarmi un microfono come si deve. Sì, ma te l'ho detto, i ceramici sono così, no, perché piacevano a tutti i CB, perché c'era la radio super rimbombante, ritronante, però vanno bene in una stanza chiusa. Adesso ad esempio in questo passaggio che ho fatto ho sentito che tua moglie ha parlato, quindi figurati com'è la situazione. È certo che l'ha sentita, come lui senti più a lì che a me. Oramai sono le donne che hanno voce in capitolo. È venuta la 50 e quindi non ho potuto riprendere, se no sentivi anche a lì. Cosa vuoi? Tu mi hai messo anche il cane, me ne è venuta a disturbare. Cosa vuoi? Sai Natalia, a te cosa serve? Per evitare tutti i rumori, ma proprio tutti, a parte quello della voce. Un attrezzo molto vecchio, ma al limite te lo puoi anche costruire, che sarebbe quello che usavano i piloti da caccia negli aerei della Seconda Guerra Mondiale, no? Che erano tutti a elica e dentro c'era un macello da diventare sordi. Il laringofono, Natali. Quello che usano quelli che ci hanno... No, no, è ancora usato, perché sennò sarebbe impossibile sentire filati dentro un aereo, tutto il caso. Lo usano anche i carristi, no? Perché tu sai che dentro il carro armato, cioè, con quel motore che c'hanno, è molto difficile togliere il rumore di fondo. E mentre con l'aringofono praticamente riesci a trasmettere in maniera estremamente chiara e anche potente, perché essendo sulla gola, no? Vicino alle corde vocali c'ha sicuramente un diverso sviluppo rispetto a una capsula microfonica che è distante. Sarebbe la soluzione ideale, se a uno non dà fastidio, perché ovviamente questa cosa attaccata al collo rimane un po' aderente e quindi è così. Lo so. Tu che microfono stai usando adesso, Gianfranco? Guarda, tutti i miei microfoni, qua ce ne sono tanti, sono tre solo per gli apparati. Ti dico, la marca è così, cioè la marca, di marca non ne hanno, perché ne hanno tante, sono quelli che fanno un po' tutti, però c'è il vantaggio davvero di essere un buon microfono. Sto cercando la sigla, dovrebbe essere a V8, quello lì, non so se c'è presente, che sono tutti neri. V8, non c'è neanche scritto, figurati. E dovrei buscarmi uno di quei micro, e me ne avevo costruito uno che funzionava bene, solo che non so che fine abbia fatto. Da tavolo, gli avevo messo uno di quei flessibili rigidi, tipo di lavandina, ed era uscito di lusso quel microfono, non so che fine ha fatto, facci credo. Sì, per farlo, infatti, il caso del lavandino, quei flessibili, che adesso tra l'altro non li fanno neanche più. Aspetta che ti dico la marca esatta, così te lo guardi, le fa anche la Lafayette, tra l'altro è Avair, questo è... questo è un'altra marca, cioè. E quello che c'ha sotto tanti interruttori, no? Perché fa col Kindred, con lo Yaesu, con l'Icom, a volte vi hanno anche i cavi, c'ha il coso per la batteria, oppure lo puoi alimentare direttamente dagli apparati, dandole 8-5 volte a seconda dell'apparecchio. Adesso guardo la scatola che doveva essere da queste parti. Niente, non l'ho trovata, cioè ho buttato qui da poco, perché tanto la garanzia qua non va più, quindi... vediamo un po' se lo trovo. Così ti dico, è esattamente anche chi lo vende, quanto costa. Io ho provato una Vile Proxel AV508, microfono a tavola a alta sensibilità, e c'ha tanti interruttori. Sì, lo fa in effetti anche la Proxel. La Proxel, vediamo un po'. Quando va una cosa, guarda il micidiale, quando c'è una cosa, stai tranquillo, non lo so. Eccolo qua. Allora, guarda, non costa neanche tanto, la SDT lo sta vendendo, tanto sono tutti uguali, non puoi sbagliare, anche se rimane 65 euro, quindi non è a condensatore, quindi non costa neanche tanto. AV8 ho scritto, il microfono al tavolo, e ci avvedi. Oh, Natalì, mi correggo, non è AV8, è AV508, 5, no, no, no, aspetta, questo qua, sì, 508. Sì, già, 4 pulsanti vicino a dove esce il coso della capsula, poi c'ha altre 3 e poi c'ha 2 tasti grandi. Esatto, è lui. 64 euro costa qua. E sotto c'è il potenziometro per regolarlo. Non è particolarmente potente, non è prepotente come microfono, però insomma si sente. Mi pare che vada bene. Andare bene già va bene, poi se mi stai dicendo che che non c'è quell'effetto che quando accendi il televisore si sente più il televisore di quello che parla. Beh, credo di no, non lo so, io ti posso accendere, vediamo un po' cosa posso accendere, quando poi qualcosa non accendi. Io non so a che distanza se ce l'hai vicino sul televisore, però accendo una radiolina, se la metto a volume forte, è sempre qua a mezzo metro. Se ti sto dicendo che si sente la radiolina che c'è in cucina, che è lontana, se mia moglie dovesse accendere quella, senti più quella che a me con questo. Ecco, adesso c'è anche la radio accesa. Come faccio io a applaudire questa roba? Abbastanza, non so se disturbi, è a mezzo metro la radio. Vedi, questo microfono va bene, perché quando parli tu la sovramoduli. Se non parlo comunque si sente, però. Sì, se tu non parli si sente la radiolina, però se tu parli la sovramoduli, capito? Sì, te la avvicino ancora. È prezioso in me stesso, dove diavolo l'ho messo? Non trovo un cuore. Ascolta, l'ho messa dietro il microfono a 10 centimetri. Capisco che così. Quindi vediamo se mi ricevi ugualmente. E un po' si sentiva la radiolina. Beh, è dietro il microfono, attaccato. Vediamo se riesci un po' a escluderla. Comunque riesci a passarla, riesci a sovramodularla. È una bomba quel microfono. Sì, penso che dovrebbe andare. Come diavolo si spegne questa storia? Vabbè, si spegnerà. Sì, va bene, io ne ho tre, perché sono, uso sempre questi perché sono tre pochi microfoni che non rompono le scatole, hanno un'eccellente resistenza agli inneschi, sono ben schermati, capito? Sono dei bei microfoni, infatti volevo sapere sempre che microfono era, perché vanno bene, diciamo così. Non è come questo ferrovecchio, c'è l'altro che è nuovo ed è peggio di questo, l'MB più 4 della ZG, quello non serve lo stesso, è peggio di questo. Perché non c'hanno i filtri di frequenza, quindi non tagliano i rumori che hanno frequenze strane, e poi è molto direttivo, capito? Essendo direttivo sul davanti, quindi dove la persona, non sente quello che c'è dietro, quelli lì invece sono microfoni che hanno una scarsissima direttività, e quindi è chiaro che facciamo questi problemi. Ti do un consiglio, se lo vuoi un po' aumentare a seconda dell'apparato in cui si usa, lo puoi aumentare semplicemente aprendolo sul davanti, le togli con la gratta che c'ha, perché c'ha uno spesso tratto di gomma piuma, e spesso fa da tappo, essendo un microfonino a condensatore dentro, potrebbe fare da tappo un po' in maniera esagerata, togli quello e tappo il microfono a condensatore di per sé è abbastanza protetto e va abbastanza bene. Si assomiglia al microfono che avevo costruito io, col flessibile. È bello come microfono anche. Sì, come modello si assomiglia molto a quelli che fa la Icom. E dentro c'è un casino di componentistica, perché siamo molto integrati, ma penso che siano proprio per quei comandi che hanno, up, down, memorie, poi acceso, spento, e tutto una fine messa. Sì, infatti. Sì, da Media Globe lo vendono questo qui. Cosa costa? 64. Ah, non sapevo che c'era quella persona che l'ho messo. Perché l'ultimo che ho preso, che sarà un 6 mesi fa, l'anno scorso forse, era l'ho preso da una cosa di mannaggia, non mi viene, a Milano comunque, perché era l'unico che ce l'aveva, perché evidentemente no? Tanto. Evidentemente sì, più che altro magari sono i radioamatori che li comprano questi. Posso darsi, ce ne sono di due tipi tra l'altro, quello che ha tutti gli equalizzatori che costa un po' più caro sicuramente, ma è uguale, io preferisco questo che è più funzionale, più corto, quello là è largo, e quindi lo preferisco come micro. Sì, è meglio questo che è più semplice, Gianfra. L'altro l'ho visto, il 908, stai dicendo. Sì, esatto. Poi dentro almeno un convertore te lo metto, non capisco. Prendi lo spinotto e te fai tutto. E lo sto guardando, 62, 64, 64 euro. Mi sembra più, rivale tutti, devo dire. Di più le MB più 4 se ti fidi, ma almeno questo è un microfono valido, va? Beh, è un baracchino, ce n'è fatta, considerando che si è stato l'ultimo, l'ho preso anche per gli apparati più grandicelli. Mi sarebbe piaciuto avere di quelli più grandicelli, che mi trovavo anche meglio. Solo che qua non mi fido, capito? Cioè, non mi fido perché è pericoloso per me. Purtroppo non posso dar ritorno perché ho visto che qua in frequenza c'è comunque tanta gente cattiva, diciamola così, che non si farebbe fare su. E poi insomma già le sai tutte le storie, non c'è bisogno di fricca io. E infatti la gente è cattiva. C'era uno che aveva visto la mia vecchia stazione su Facebook, me ne ha detto di tutti i colori. Però anche tu ama pubblicare le cose che dovrebbero essere private su Facebook, sei proprio furbo, non devi mettere niente nata lì, perché guarda, sono più quelli, io sono sicuro che sono più quelli che ci sono in frequenza, che rompono le scatole dei tuoi vicini. Sì, anche quelli che sono, lui non se ne parla dei vicini. È proprio così, nata lì. Perdono il vizio ma non il pelo, diceva quello lì. Non si rendono conto che poi alla fine si è qua tutti per farci una chiacchierata senza impegno e poi andarsene a mangiare, a cenare e ognuno ha i fatti suoi. Purtroppo non è così. Sì, infatti già fra. Speriamo adesso quando cambiano le frequenze TV che non disturbo più. Così almeno qualcosa la posso fare, qualcosina, adesso per il momento non mi fido, non si sa mai. Tanto non lo userei neanche in trasmissione, anche se me lo compro, perché se lo uso in trasmissione subito sanno di cosa si tratta, che è questo, che è quello, e ti fanno la spia. Natali, io ti dico, è poco, ma sicuro, perché tu lo dici in frequenza e poi subito quelli là, i soliti potremmo dire, i soliti subito fanno la cassetta, perché dove trova c'è gente cattiva e quindi fa queste cose, ecco. Anche se loro non c'entrano niente, non sono danneggiate, io posso capire un vicino esasperato, quello ci sta, comunque c'è un motivo, ma i peggiori sono quelli che non hanno neanche il motivo, io non so cosa li spinga, se si possa parlare di invidia, di antipatia o che cosa, questo è tutto da scoprire, però la cosa certa è che ci sono. Ah, esserci ci sono, sì. Di cosa debbano essere gelosi, poi di me non ho capito. Magari sono gelosi anche dalle malattie, guarda. continuare questo passo. Io infatti, io non lo guardo mai rotto le scatole a nessuno, non sono mai andato a rompere le scatole alla gente che lavora. Qua è una cosa che non si crede, proprio io che mi sono comportato bene vengo trattato in questa maniera. C'era gente che andava a rompere le scatole alla gente che lavorava, sentita da me. Sì, che poi la cosa più che ti dà più fastidio è che spesso è gente che conosci, capito? Che magari sta sempre lì, ciao, poi alla fine ti pugnava le spalle, questa è una cosa che è veramente insopportabile. Purtroppo questi qua ci sono dappertutto, ci sono sul lavoro, ci sono in frequenza. Su tutte le frequenze, per dire il vero, perché se ne sentono tutti i colori, però cosa ci possiamo fare? Anche quella è una croce alla vita. Ehi, sono peggio delle lavandaie. Io dico le lavandaie sono più signore. E poi perché dobbiamo offendere le lavandaie? Scusa, fanno un lavoro dignitoso, onesto. Anche se non ci sono più le lavandaie, credo, perché ormai sono la vaticchia. Per dire, vabbè. Speriamo che adesso che cambiano le frequenze TV, che non dovrei disturbare, penso. Perché già ne disturbo uno solo, a quanto mi hanno detto, quello di sotto. Ma speriamo vada tutto bene, almeno sono più tranquillo. Sto evitando anche di entrare perché disturba questo qui. È normale che non sono più analogici i televisori, perché c'era quella serie Rex D'Annunzi che doveva fare la signora Croce, era praticamente impossibile non disturbare, perché non avevamo messo un condensatore, non so, sul coso audio, no? Sull'ingresso audio. E entrava tutto in maniera micidiale, che tra l'altro era assordante perché scavalcava anche il volume, quindi andava direttamente al massimo del volume, questa cosa, una cosa pazzesca, per un condensatore del cavolo, quanti casini che hanno combinato quei televisori. Comunque adesso il problema non c'è perché sono in digitale, quindi quello che succede essenzialmente è che il segnale sparisce, a meno che qualcuno non ci abbia lo stesso problema sull'audio, ma spero di no, perché al giorno d'oggi dovrebbe essere tutto filtrato, tutto fatto per benino, e questo è un problema, è un grosso problema, perché dipende dalla gente, da colui che c'ha il televisore al 90%. Sì, infatti, tu pensa che l'antenna mia del mio televisore è sul palo di quelli che disturbo, tu pensa in che modo devono avere l'antenna. Ah, poi quella del condensatorino, già me l'aveva raccontata Vittorio. Lui inseriva il condensatore e il CB pirata spariva come d'incanto. Infatti è un condensatore di fuga che praticamente mette a terra eventuali disturbi, che siano RF, che siano di alta natura, di scarica, eccetera, perché a quelli sicuramente saltava nell'aria anche quando c'era qualche piccolo temporale, perché era una circuitazione veramente infame, che chi l'aveva fatto l'aveva preso e sbattuto al muro. È come incorporare nel televisore una radiogalena praticamente, oppure lo ricordo di quei baracchini che non c'erano quarti, che ricevevano tutto quelli per bambini, eccetera, tutti i canali prendevano, e così erano quei televisori. Sì, infatti. Sì, ma Vittorio quanto mi aveva fatto ridere la volta, mi aveva detto anche la marca del televisore che era, dice, c'era la predisposizione per il condensatore, però il condensatore non c'era. Allora lui ha preso e gli ha messo il condensatore, disse una bomba al televisore, non veniva più disturbato. I vecchi danosi erano la serie di televisori lì, che c'era una disperazione. Eppure fatti in Italia erano, la massa ne scende, già non erano abbiamo prega di certo. Sì, uno o due ne ha piazzato di quei condensatori adesso, perché venivano disturbati questi televisori. Io ho piazzato il condensatore natalicata e il CB pirata sparito del tutto. Da 0-1, forse da 0-5 era con il condensatore lì. Qualche centesimo da spendere, però Panama, guarda. Non come facciamo ridere quelli di cosa, di ristetto. Che televisore sentiva pure i carabinieri, c'era lasciata anche la piccola giornale, carabinieri ci stanno disturbando le televisioni, e quelli perplessi, ma come c'è gente che ascolta la comunicazione, ma troppo deve mettere qua anche la muta se questa fa la televisione. No, e quelli di Via Genova, del condominio di Via Genova, che ascoltavano la stradale, e poi si sono denunciati tutti, sia la polizia ha denunciato a loro, perché loro non potevano ascoltare le loro comunicazioni. Sì, guarda, con cose da matti, dovevamo prendere i televisori e mandarli tutti in garanzia a fare parate. Dobbiamo fare un richiamo direttamente alla Zanussi, perché insomma quando sia CB sia le forze di polizia ci sono in tutta Italia, quindi non sarà stato certo un problema di Sassari a generare questo problema, queste cose. Quindi se la Zanussi fosse stata seria dovrà fare un richiamo o a tutti quelli che soltanto c'era l'assistenza, si mandavano tutti in assistenza. Adesso c'è un problema senza far nascere litigi e tutto quello che è successo veramente, e io sono sicuro che comunque in questa fascia rientrano anche parecchi amplificatori televisivi che sono totalmente aperti e quindi non hanno nessun filtro contro le frequenze più basse o più alte, e quindi si portano dentro qualche spazzatura. Se un amico mio gli ho rifatto l'impianto TV perché c'aveva l'amplificatore in mezzo all'acqua in soffitta, vado a toccare un'antenna e mi rimane in mano, gli ho cambiato un'antenna, tutti i cavi, tutti gli spezzoni li ho cambiato, e il cavo fino al coso, no, all'amplificatore, gli ho messo l'amplificatore, ho preso e gliel'ho attaccata a una trave di legno che c'era lì, manco col Kenwood disturbava più. Prima con l'omologato schiacciava e disturbava tutti i televisori del palazzo perché era centralizzato, no? Quindi li disturbava tutti. Quando gli ho messo a mano io, che ho comprato l'antenna nuova e tutto, perché un'antenna proprio era marcia e come sono andato a toccarla mi è rimasta in mano, figurati in che stato era l'impianto TV. Sì, ma infatti una volta che l'antenna partono anche quei filtri che c'è all'interno, quelle dotanze eccetera eccetera, soprattutto quelle per VHF, succede un casino veramente, l'antenna non è più per quelle frequenze, diventa praticamente una cosa a larga banda e poi si fradicheggia pure. Se non le ossidazioni, qualcuno dice qua col suo cavo, e guarda, ne ho visto di tutti i colori, anche da me lo stesso andato a vedere queste antenne, perché una volta che metti l'antenna pensano che duri 50, 60, 70 anni, poi va lì e la vedi che anche a terra da volte, a terra una cornacchia te l'aspetta come niente. Quindi sono cose veramente lontane, nessuno si mette il problema, ma magari c'è l'amplificatore che al massimo, hanno magari montato in vista, ci mettono pure un amplificatore al massimo per saturare meglio. E tutte queste belle cose. Quindi i Natali, la gente purtroppo è così, che c'è quel fatto. Se guarda, almeno a quello amico mio sono potuto salire sul tetto e gliel'ho risolto il problema. A questi mi sono offerto di fargli l'antenna a spese mie, nuova, e si sono rifiutati. Vuol dire che c'era la magagna. Sarebbe stato bello registrare la conversazione quando gliel'ha detto e stare tranquillo. Quando veniva qualcuno glielo dicevi, sì, ah, quel signore, guardi, io mi sono offerto di farle revisionare l'impianto, tutte spese mie, gratuite, ma ha detto di no. E quindi, aspetta, scusa un attimo, ma perché sento, allora, dove hai bruciato, c'è cioè, la finestra aperta, non vuole fare, ma intanto è meglio dare una piazza, non sa mai. C'è qualcuno? Ehi, avanti. Ciao Natalia, buongiorno. Chi c'è? C'è qualcuno? C'è Gianfranco, un attimo che si è spostato. Ebbene, Robè. Allora sai cosa mi fa la macchina a proposito? Da lontano non le apre più le portiere. Chissà cosa cavolo è successo al sensore dell'apri portiere del telecomando, boh. Non so neanche dove sia per vedere. Cosa vuol dire da lontano? Se ti avvicini invece funziona. Sì, se mi avvicino funziona, mi apre la portiera. Però da lontano come era prima no, manco se ti ammazzi, solo vicino alla macchina funziona. Cambia la batteria, adesso avevo. Giammata, è nuova, cambiata quando è l'altro ieri. È strano questo difetto, mentre se ti avvicini funziona. Dove c'è lo schermo, c'è una specie, adesso non mi ricordo se l'appunto, dove ce l'ha il ricevitore, se ce l'ha sul cruscotto, non bisogna vedere, cerca ricevitore telecomando punto 188. Io ho cercato ma non ce n'era l'immagine di dove fosse. Mi stavano dicendo che era dietro lo specchietto retrovisore, boh, però non ho visto nulla. No, non c'entra niente lo specchietto retrovisore, assolutamente, a parte che non c'è nulla. La grande punto ce l'ha sul cruscotto, una specie di cupoletta, cioè. Quello lì adesso non me lo devo cercare, dai, devo informarmi, adesso non me lo ricordo, perché ho molte macchine, le macchine cambiano. E meglio c'è Gianfranco? Sì signore, non so se sia rientrato perché stava controllando una cosa. Sì, sono rientrato, ciao Robè. Pensavo che fosse qualcosa di strano, invece era la braccia pronta per metterci sopra qualcosa. Io sentivo l'odore di legna bruciata, infatti, sai, è sempre meglio controllare la situazione. Meglio Lussico, poi con l'incendio che c'è stato l'altro giorno, meglio stare attenti. Ma guarda, avanti ieri sono passato sulla 131 e non si poteva respirare, ho dovuto chiudere tutto perché c'era questo odore di cera pazzesco, veramente pazzesco. Allora, mio cognato ci è ritornato ieri era sabato, è successo due giorni prima, c'era ancora qualcosa di acceso, mi ha detto. Sono andato sabato mattina, è rientrato alle 8:30, ieri l'ho chiamato e ecco, mi sto andando in intervento. Infatti, sì, li ho sentito anch'io che sono arrivati da tutte le parti, due anche feriti, speriamo che non sia niente di grave. E poi dicono, capito, subito mi è venuta la curiosità di sapere quanto prendono gli stipendi, non credevo ai miei occhi, guarda, stipendi anche lì da fame veramente, una cosa allucinante, con un fischio, anche la polizia, lo stesso carabinieri, ma cioè uno che viene voglia di dire, ma io mi devo afferrare con questi delinquenti, con certa gente, andare a spegnere questi incendi pericolosi, perché qui è molto pericoloso, poi in più ti danno anche quelli boschivi, quindi però sono un po' di pane veramente. Oi, riprendi Natali. È proprio vero. C'era un amico mio che era autista del presidente del tribunale, la buona anima, cavolo, pigliava uno stipendio da fame, Ma tu lo sai che non hanno un'indennità di rischio i vigili del fuoco? Cioè se tu non hanno, se tu vai la notte o se vai di giorno, festivo o feriale, non cambia niente. E è come che sia un giorno normale per loro. L'indennità di rischio non ne hanno. Sì, ovvio, solo quello ci manca, mamma mia. C'avevo mio compare e cugino anche, che se n'è andato in pensione, e quello era vigile del fuoco lo stesso. Rischiano la vita quella gente. Adesso c'è stato quell'incendio, due feriti dei vigili del fuoco ce n'era. Me l'ha raccontato come è successo, loro erano molto lontani, più di 15 metri, dice gli è arrivata una piazza, l'ha preso di fianco, lui si è girato in quel momento per aumentare la pressione, gli è arrivata, l'ha preso di fianco, dice l'ha fatto livido, tutto livido, però diciamo non è pericolo, niente di pericoloso, però cacchio è come che ti abbiano tirato un colpo di mazzetta al fianco, dice c'ha tutto livido, tutto nero. E non prendono neanche questo granché di stipendio, perché la paga statale non è tanto per la quale. I poliziotti lo stesso, carabinieri, prendono poco, non è che prendono molto di stipendio. Un po' di meno di un parlamentare prendono. Un po' molto di meno di un parlamentare. Molto, ma molto di meno. Un poliziotto mi sembra che prende 1.400 euro di stipendio. Siamo lì. Cambiando discorso, una domanda tecnica a Gianfranco. Gianfranco, io sono andato a cercare un cavo seriale, ne avevo a montagne, RS-232, è da attaccare da femmina a maschio per portarlo in un monitor. L'ho comprato tutto quanto convintissimo, poi invece quello che devo attaccare all'apparato è un RS-232 9 pulli femmina che esce a 15 pulli maschio. Ne hai visto in giro? Si trova ancora? Che esce a 12 pulli maschio. Allora, l'ingresso del monitor normalmente sono 15 pulli, no? C'hanno tre file di pin a 15 pulli maschio, confermi? Ah, non stiamo parlando di seriale, quindi di roba video. Video, cavo video di computer, di monitor diciamo, c'ha l'uscita, l'ingresso dove attacchi il cavo, RS-232, 15 pulli, tre file da 5, confermi? No, 232 dovrebbe essere la seriale, se non ricordo male. La presa seriale che sono di due tipi, a 26 e a 9. Quella là è una presa VGA per i video che è ancora in uso, anche se presto sarà abbandonata, perché già lo sai, c'è quella HDMI e poi c'è anche la DV che è diversa. A proposito, giusto di questo discorso che ognuno vuole fare quello che deve fare, pare che finalmente sia stato proposto da un parlamentare nella comunità europea di standardizzare tutti i tipi di cellulari, quindi con un unico caricabatterie, con lo standard USB-C. Era ora. Così dovrò fare con gli attacchi video e con tutta quella roba lì, perché ogni tanto ne c'è qualcosa che ti fa uscire di testa. Ah no, per il cellulare già da qualche anno è stato uniformato, però il micro USB c'aveva dei limiti, per cui hanno dovuto sostituire con un altro ancora, perché non riusciva a trasmettere le informazioni, era limitata. No, quello che hai detto tu, VGA, attacco VGA video, che attacca una RS-232C, 9 puli. Ne hai visto di cavi del genere? Perché ho visto, tra l'altro li stavo cercando su internet, ma cavo diretto non l'ho visto. Esiste qualcosa? No, in ogni caso è un cavo video, quindi onestamente non ti so rispondere, forse dovresti chiedere a Vittorio se lo senti, perché roba nuova di certo non deve essere. Allora, la domanda è questa, da un apparato, parliamo da un ricevitore radioamatoriale, c'è l'uscita 9 pin, RS-232 femmina, e devo attaccare questa uscita a un monitor VGA, hai capito il discorso? Sì, senza nessun convertitore frapposto, così? Sì, che questo tipo di apparato non ha bisogno di nessun convertitore. Allora, a me sono concesso che questa sia realmente una presa seriale, con gli standard seriali, può darsi che l'abbiano usata per farci le varie uscite, che per uno dovrà capire, perché una parte credo sia colore, l'altra parte sincronismi, bisogni, eccetera, che devono corrispondere a quello che alla fine, cioè quando viene attaccato al monitor, è una presa RGB o VGA, come la vuoi chiamare, capito? Quindi deve avere tutti gli input di quei segnali, e non sono pochi, che vengono mandati al monitor. Quindi probabilmente uno si deve prendere la pentola, vedere le specifiche di ogni singolo pin e autocostruirsela, a meno che non ci sia già fatta, ma vada la pesca questa cosa. Scusate, è il monopolio, no, è proprio nelle istruzioni, nel manuale del servizio di questo apparato, va direttamente, cioè non c'è bisogno di nessun convertitore, probabilmente c'è all'interno dell'apparato il convertitore. Io convintissimo che fosse la classica VGA, sono andato a comprarne una maschera e una femmina, l'ho attaccata, ma qua ci sono solo due file di pin, 5 più 4, mentre l'altra è 3 da 5, infatti ho detto, buh, che strano. E ho guardato su internet, esistono degli adattatori, però stiamo parlando di cose vecchie, di 10-15 anni fa. Infatti è quello che ti ho detto, quindi poi magari è solo per far vedere un qualche segnale, una qualche traccia, io non ne fa anche a meno, a seconda del tipo di apparato che così non posso dire, anche perché ti ripeto, bisogna stare molto attenti perché ci sono vari segnali, magari se ne metti qualcosa poi vedi il fumo e ti rampi tutto, quindi è una cosa un pochettino da starci attenti alle specifiche, tutto lì, se prendi Natalie. Scusate, buongiorno Mario, ciao Gianfranco, ciao Natalino, ciao Alberto, sono all'ascolto, scusate, ma guarda c'è già una 10 minuti uno che sta chiamando, c'è uno che sta chiamando forse da qualche controllo, avanti Natalino, quelli che si prende, avanti. Forse Natalino si è notato, ciao Marino, vediamo chi chiama sul canale 10, avanti. Vabbè, stavo durando, avanti che vuoi fare, sentite, vabbè. No, sento parlare ma non capisco cosa sta dicendo, chi è? Avanti, sono 10, sì, scusa. È un bel lontano, lo sento nel fondo. Bobbo. Ciao Clive, qui c'è anche Gianfranco. Oh. C'è questo che sta parlando, però non capisco chi è. Chi è, lo cerco sul fondo, ma non capisco chi sia. Ciao Gianfranco. Sì, ciao Claudio, dove è stato? Perché stavo facendo un'altra cosa. No, neanche io sento un tubo, anche perché c'è un po' di squelcio per evitare il rumore di fondo, perché c'è anche un pochino di propagazione. Sto bene, Claudio. Ultimamente, grazie a Dio. Benissimo, oggi è una giornata un po' di merda, devo fare alcune cosette, ma adesso mi stavo rilassando, prendo un caffè, visto che non l'ho preso stamattina presto, adesso mi aspetto che c'è la partita, una 2 giorni e mezzo, così cioè, guardiamo sta partita, e boh, basta, e poi si pranza, tutto qua. Sono uscito a fare un giro in piazza Italia, c'è il mercatino, ma avevo un cazzo, mamma mia, mi stavo sciogliendo, c'era quella pioggerellina piccolina, ha durato un paio di minuti, poi mi sono salito, poi c'era una manifestazione di questi, tipo dell'Avis, non so, hanno messo in terra tutto pieno di tappeti, hanno riempito la piazza Italia di tappeti, cacchio, tutti infusi. Ma non so, quei tappetini piccolini, cioè presente quelli quadrati tipo che metti sotto nelle sedie, era pieno, tutta la parte della provincia completamente tappezzata, c'erano centinaia di questi quadrati intrecciati, colorati, tutti mudi, fatto, e poi c'era un chioschetto, non so di che cos'era, tipo quelli quando fanno tipo Unicef, cose per la sclerosi, cose così, dai, non so esattamente di che cos'era, e poi dall'altra parte c'era il mercatino che fanno tutte l'ultima domenica del mese e la prima del mese successivo, però non c'era niente interessante. No, io non mi sono mosso, sono visto stamattina per il mio caffè e sigaretta, il Chris, ma 10 minuti, poi sono andato a parlare mia figlia, ho fatto colazione lì e poi niente, poi mi sono ritornato a casa, anche perché ho visto la giornata era un po' così, avevo qualche cosetta da fare, ma si fa lunedì, dai. Va bene, sono entrato a salutarvi, buon progetto del consiglio, buona domenica a tutti e ci sentiamo alle prossime. Vai Gianfra. Sì, ciao Claudio, ci sentiamo. Buona domenica, riprendi Natale. Ciao Claudio, ben entrato. E c'era anche l'altro amico che è entrato poco fa, ma ma non potevo rispondere perché ho dovuto mandare il cane a fare la pipì. Ciao Cattalicia, un abbraccio, ma me l'ascolto. Sì, ciao Claudio, ci sentiamo. Gianfra, quello che ti leggo, cosa c'è scritto? Il connettore, questo connettore che sto parlando io, attaccato all'apparato, connettore COM, consente di collegare direttamente un computer o un terminale non intelligente mediante il cavo RS-232C dotato di un'estremità con un connettore fermi a 9 piedini. Non è necessaria un'interfaccia hardware esterna tra computer e ricevitore-trasmettitore, eccetera, eccetera. Poi c'è scritto per ulteriore informazione e consultare l'appendice. Sì, ma allora visto che non stiamo parlando di una cosa video, stiamo parlando di un banale collegamento seriale, e allora ci sta benissimo la seriale, che tu devi collegare a un computer, o ancora meglio, siccome oramai le seriali sono rare, lo dovrei collegare praticamente a un convertitore seriale. Da seriale USB, che li uso anche io perché oramai le seriali sono rare, anche se stanno mettendo le USB anche sugli apparati. Tutto lì. Quello è un collegamento, non so, magari lo usano per gestire l'apparecchio, la potenza, la modulazione, chi più ne ha più ne metta, ecco. È quello che volevo capire, questo lo inserisco per dire, c'è un portatile con l'ingresso seriale, lo attacco direttamente al computer e automaticamente mi appare nel monitor del computer la pagina che cioè le funzioni dell'apparato, perché qua leggendo quello che c'è scritto qua non è necessaria interfaccia esterna tra computer e trasmettitore, c'è scritto. Sì, è un'interfaccia, ci vuole ovviamente il programma suo di gestione in modo che riconosca la COM, dopodiché capisce al volo se si tratta solo di programmazione di memoria o altri tipi anche di programmazione, perché certi ti permettono anche di programmare, che ne so, un eventuale invio di messaggi o cose di quel genere lì, o anche GPS e compagnia cantante. Invece ti volevo dire, giusto perché ti interessa anche l'ascolto, che sotto, stavo mostrando a 26.690, c'è una bella portante, ma di quelle belle larghe, formato strano, di domanda e risposta, cioè fa la trasmissione e l'apparato remoto le sta rispondendo, quindi dovrebbe essere una trasmissione d'atti, che ovviamente non si sa, presumo che siano i soliti tedeschi, puntini, puntini, ed è assordante, fa tre, e l'altro le risponde sì, poi te, sì, è sempre così, è un segnale veramente forte. A 26.690, che modulazione è, in base laterale o in AM? Guarda, di lì non ho fatto in tempo perché mi sono montato un attimo per ascoltare, però di norma o sono FM o sono FSK e cose del genere, dipende da cosa è e che funzioni ha, che noi ovviamente non sappiamo, quindi ci vorrebbe l'altro programma che per la decodifica è a 26.690. Aspetta un secondino, provo a metterlo, tanto un attimo. È bello largo, è una segnale, c'ha le spalle molto robuste, sarà in FM, penso. Avanti Natale. E gli dai. Stavo guardando questo affare qui dell'appunto di Sagare, però. Un macello qua. Nel coso di fusibili dovrebbe essere. Ma che cosa? Il ricevitore del telecomando per la chiusura centralizzata delle portiere della punta. Ho ricevuto, scusa Natale Gianfra, uno è Santiago 8-9, l'altro è Santiago 7. Domanda e risposta, capito? Quindi lui le manda una stringa e quello le risponde in un'altra stringa di ricevuto. Dovrebbe essere in